giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. Della criminalità nei vari settori dell'economia. Ormai è notorio come gli appalti di opere pubbliche siano spesso oggetto di infiltrazioni mafiose attraverso imprese infestate a prestanomi, naturalmente. C'è sempre grosso il problema delle estorsioni e anche quello dell'usura. Lo sottolinea l'ex procuratore nazionale antimafia Piero Luigi Vigna. Ci sono piovre con mille tentacoli, sempre pronte a mimetizzarsi, a nascondersi dietro società rispettabili solo all'apparenza, gestite da prestanome e dalla fedina penale Linda. Uomini dai colletti bianchi, ma con le mani sporcate da affari illegali. Non destano sospetto alcuno, riescono ad evadere anche i controlli più rigorosi di magistrati, finanzieri, forze di polizia. Picciotti in giacca e cravatta si celano dietro ad uffici di rappresentanza, società di intermediazione immobiliare, perfino dietro a sportelli bancari. Piovre con mille tentacoli, estendono i propri interessi ben fuori dai loro territori, non solo in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, non solo infiltrate dentro i gangli vitali dell'economia del nostro mezzogiorno. La criminalità organizzata è oggi radicata nelle regioni più tranquille, dove il benessere sociale risulta tra i più elevati. Appalti di traffico di stupefacenti, usura, prostituzione, traffico di esseri umani, vische e scommesse clandestine. E soprattutto un fiume di denaro sporco da riciclare, utilizzando i meccanismi di sempre, società pulite inserite nell'economia sana del paese. Non solo dunque Cosa Nostra, 'Ndrangheta calabrese, Sacra Corona Unita pugliese, Camorra napoletana. Negli affari illegali ci sono entrate tutte le mafie internazionali, come ricorda l'ex procuratore nazionale antimafia Piero Luigi Vigna. In Italia in particolare noi ci occupiamo della mafia cinese, di quella albanese, di quella colombiana, di quella turca, di quella nigeriana, che mi sembra già un bello spettro di attività, che sono quelle che più sono presenti in Italia. C'è da notare che queste non stabiliscono però alleanze, come dire, organiche e strutturali con le nostre organizzazioni mafiose, no? Con quelle endogene. Piuttosto si pongono come organizzazioni di servizio nel senso che procurano alle nostri gruppi criminali dei beni illeciti da gestire, in particolare droga che viene dalla Colombia, viene dall'Albania, per quanto riguarda sia la marijuana, sia l'eroina, sia anche la cocaina, perché i colombiani usano anche quella testa di ponte lì. E parte da qui, da queste considerazioni generali, il viaggio del giallo e nero nell'Italia della mafia. Lombardia, i boss mafiosi si insediano qui fin dal dopoguerra. Qui si concentra gran parte del prodotto interno lordo italiano. Le infiltrazioni partono poco dopo la ricostruzione e poco prima del boom economico degli anni 60. Negli anni 50 all'ombra della Madonnina giunge il braccio destro di Luchi Luciano. A Milano viene arrestato Luciano Liggio, capo di Cosa Nostra. In Lombardia la mafia tenta la carta dei sequestri di persone, sperimenta nuove alleanze nel traffico degli stupefacenti, prende contatti con la politica e si assicura appalti pagando mazzette. Nell'Interland milanese ci sono villette a due piani, con targhette sui campanelli che portano i cognomi di tutte le famiglie più importanti della geografia mafiosa. Trezzano sul Naviglio, Bucinasco, Corsico, Rozzano. Fatele qui la nostra storia. Lo scrittore e giornalista Piero Colaprico. Nel 1958 arriva a Milano Giuseppe Doto, detto Gio Adonis, e considerato il precursore della mafia a Milano. Era il braccio destro di Lucky Luciano. È il febbraio 58, ripeto, gli Stati Uniti avevano cacciato via un po' di indesiderabili, tra questi questo signore che arriva a Milano e si piazza in pieno centro, in via Albricci, aprirà una catena di supermercati, un immobiliare, e terrà a casa sua una ragazza giovanissima scappata di casa, una 17enne, che poi finirà come valletta nelle bische di Angelo e Paminonda, detto il Tebano, che siamo quindi negli anni Ottanta. Attraverso la vita anche di questa ragazza si può leggere tante robe di quelle che sono successe a Milano, perché l'infiltrazione è una cosa lunga. Un'altra data molto importante è 1974, viene arrestato Luciano Ligio a Milano, è il primo arresto di un grande boss di Cosa Nostra lontano dalla Sicilia, primo e unico nella storia. Venne salutato con grande interesse da parte dei parlamentari più avvertiti, alcuni che inneggiarono poi morirono, e comunque anche questo è un indizio estremamente importante, perché in pieni anni 70 si arriva a Ligio a Milano attraverso un'indagine sui sequestri di persona e precisamente sul sequestro di Rossi di Montelera, l'ex proprietario della Martina e Rossi, che venne rapito in Piemonte e poi venne fuori in una cascina in Lombardia. Alla fine degli anni Ottanta è inquietante semplicemente per un fatto, perché in quella stagione, diciamo in un'epoca pre-Tangentopoli, si sapeva che si pagavano le mazzette, cioè correva questa voce, però non c'era la minima prova. Ogni volta che veniva arrestato qualche politico, questo politico negava, diceva che non era vero, comunque si teneva comunque le responsabilità senza investire altri dei partiti di appartenenza. Il sistema quindi reggeva molto su questa omertà. Venne fuori, era stata appena fatta una legge sulle microspie, e l'allora capitano ultimo, quello che poi arresterà Totò Riina a Palermo, si faceva le ossa a Milano e piazzò una microspia nel cantiere, in un cantiere alle porte di Milano, e sentì alcuni di questi presunti mafiosi dire: abbiamo pagato per avere il via libera dall'assessorato, ho un contatto con il sindaco, questo, quello, eccetera. Alcune cose erano millanterie, ma altre robe vennero trovate come vere, e comunque era la primissima volta che la mafia arrivava a Milano, pagava le tangenti e entrava nell'edilizia. Cioè, questo era già successo ovviamente negli anni 60, negli anni 70, ma era la prima volta che questa roba veniva documentata attraverso una microspia dei carabinieri. È stata un'inchiesta che ha fatto epoca, ha fatto traballare una giunta e ha aperto poi la via alla stagione di Tangentopoli. È stata una specie di preistoria di Tangentopoli. Questo è accaduto nel passato. E oggi? Cosa accade a Milano? Quali sono le organizzazioni egemoni? Quali gli affari legali ancora? Quali alleanze permettono alle mafie di sopravvivere? Lorenzo Frigerio dell'associazione Libera. Se stiamo ai dati ufficiali, alle cose che ci vengono dette sia dai magistrati che dalle forze dell'ordine, la situazione è abbastanza preoccupante, perché c'è una forte presenza dell'andrangheta in zone che sono, direi a questo punto, storiche. Penso alla cintura sud di Milano, con alcuni comuni dell'Interland che negli anni 90 sono stati toccati da diversi arresti e sostanzialmente dallo smantellamento messo in opera dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano di alcune famiglie di origine ndranghettistica molto solidata nel tempo. Ancora quest'anno, all'inizio, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore Minare sottolineava questa presenza, soprattutto nell'Interland. Quindi verrebbe da dire che le cose non sono cambiate, questo è un dato poco consolante, se pensiamo che nella prima metà degli anni 90 i magistrati appunto della DDA di Milano processarono quasi 3.000 persone, che è un numero 3 volte superiore a quello che nello stesso periodo la Procura di Palermo sputò alla sbarra. Il settore edilizio, con la carovana l'anno scorso e ancora quest'anno, in modo particolare abbiamo puntato i riflettori sul mercato delle braccia del caporalato connesso per quanto riguarda il movimento terra, gli scavi, il trasporto dei materiali, eccetera. Il settore immobiliare, del resto la gran quantità di denaro che proviene dal traffico di stupefacenti trova qua un naturale sbocco. Le forniture anche di prodotti alimentari, in particolare ortofrutticoli, e qua c'è tutta la vicenda dell'ortomercato che periodicamente si ripresenta sulla nostra piazza con toni che sono preoccupanti a dir poco. Gli appalti pubblici, distributori stradali addirittura, servizi di facchinaggio e pulizia, i trasporti, autorimessi, insomma una capacità di questi uomini di diversificare gli investimenti che è la cosa che deve più preoccuparci. Giallo e nero, tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. Il nostro viaggio prosegue dalla Lombardia al Piemonte. Luigi Peruzzotti è senatore e membro della Commissione Antimafia. Lui lancia un allarme sugli affari della criminalità albanese in questa regione e davanti ai colleghi parlamentari in una seduta segretata sostiene che la delinquenza criminale albanese ha conquistato il Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia, Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo e via via tutte le regioni. E sulle altre mafie sforna dati e cifre che riguardano Piemonte e Val d'Aosta. E dice: nelle due regioni non risultano infiltrazioni mafiose nel settore industriale, mentre si segnalano situazioni sospette in quello finanziario. Negli ultimi anni si è assistito ad una proliferazione di società finanziarie fiduciarie che possono costituire un rilevante canale di riciclaggio di denaro sporco. E ora la Liguria. Secondo l'ultimo rapporto della DNA, le organizzazioni criminali presenti sul territorio sono orientate più che ad ottenere un diretto ed immediato controllo, piuttosto alla conquista di mercati e riferimenti logistico-strategici per la gestione dei traffici illeciti. Comunque anche in Liguria operano a Cosa Nostra, 'Ndrangheta calabrese, criminalità russa, cinese, nigeriana, ecuadoriana. E in Emilia-Romagna sono presenti tutte le più potenti organizzazioni criminali italiane, soprattutto Camorra e 'Ndrangheta. Ma chi controlla davvero i traffici è senza ombra di dubbio la mafia russa. Lungo la costa adriatica, i narcodollari dei trafficanti di Mosca hanno inquinato una zona florida sul piano economico. Tutto è accaduto ben prima della caduta del muro di Berlino. I primi insediamenti risalgono infatti alla metà degli anni 80 e si solidificano lungo gli anni 90. Dall'Emilia Romagna alla Toscana. Qui la mafia ha colpito il 27 maggio 1993 in via dei Georgofili, a Firenze, 4 morti. Ha distrutto beni architettonici di inestimabile valore e disintegrato alcune parti della Galleria degli Uffizi. Ora non adotta più la linea stragista del passato. Quali canali utilizza per portare l'attacco al cuore dell'economia reale della regione? Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, lo spiega al Giallo e Nero. Ma in particolar modo attraverso il meccanismo del riciclo del denaro sporco. Questo è stato il modo in cui la mafia, non solo quella italiana, si è infiltrata negli anni nel tessuto economico della Toscana. Ci sono stati già nei primi anni 90, addirittura c'era una prima cosca, che era la cosca della famiglia Cavataio, una delle famiglie perdenti siciliane, che si era trasferita in Toscana, precisamente a Campi Bisenzio, e da lì stava iniziando a ramificarsi, eccetera. Questo è stato uno degli esempi più eclatanti. Poi ci sono un sacco di altri esempi, fra cui anche, oltre alla mafia cosiddetta italiana, c'è tutta una situazione di tensione in questo momento tuttora esistente nella zona del Pistoiese, nella zona di Montecatini, la Val di Nievole, con tanto di episodi del recente passato molto particolari, collegati anche allo sfruttamento dei locali notturni e della prostituzione. E c'è tutta anche una sacca in tutta la Versilia in cui ultimamente vi è una fortissima presenza di mafia russa. C'è una difficoltà ideologica che nel considerare la mafia forte in Toscana, perché si è abituata alla mafia, per mafia intendo dalla mafia siciliana, all'andrangheta, alla camorra, alle mafie straniere, do un significato unico a questa parola. C'è la difficoltà ideologica a considerare la mafia presente su questo territorio, a volte anche da parte degli stessi operatori, che ultimamente per fortuna invece si stanno occupando di questo fenomeno, perché non si pensa solo che sia un fenomeno a volte meridionale e si pensa alla mafia che spara, ma la mafia spara solo quando ha bisogno e soprattutto non spara mai quando sta riciclando il denaro sporco, perché non gli conviene, anzi lo deve fare sotto traccia. Occorre quindi verificare i passaggi di proprietà, chiedendo anche l'applicazione, come noi spesso facciamo come fondazione, non sempre siamo ascoltati, della legge Mancino, che prevede che vengano comunicate alle prefetture da parte dei notai tutti i passaggi di proprietà immobiliari. Dalla Toscana alle Marche. Si estende fino a qui l'ombra lunga della mafia russa, che ha investito denaro sporco lungo il litorale emiliano-romagnolo. Massimo Del Papa, giornalista e scrittore, si è incrociato con quella mafia che non fa rumore, ma fa molti affari. Io sono arrivato nelle Marche a vivere nel 1984, quindi oltre 20 anni fa, e già c'erano precisi segnali di infiltrazioni mafiose che erano cominciati 3 o 4 anni prima, in coincidenza con l'assegnazione a supercarcere di Marino di Cutolo Raffaele, cioè il capo di allora della nuova camorra organizzata. Il grosso della mafia, anche nelle Marche, soprattutto nella zona del Fermano, è costituito ancora oggi dalla droga. Dove c'è droga c'è sempre infiltrazione mafiosa, perché comunque questo è un business che è esclusivo appannaggio delle mafie. Non viene fatta circolare droga se non per le mani della mafia. Il procuratore nazionale antimafia Vigna, sostituito dal procuratore di Palermo Grasso, stimava l'anno scorso in 100 miliardi di dollari annui il fatturato mafioso e diceva che ancora oggi la mafia trae la maggior parte di questi cespiti dal narcotraffico, nonostante sia riuscita a governare la mutazione tecnologica della globalizzazione. Io temo che sia un po' bassa la situazione dell'antimafia, nel senso che qui si è sempre cercato di minimizzare il problema, di esorcizzarlo in questo senso, cioè sappiamo che ci sono infiltrazioni mafiose, ma tanto sono cose dal sud, noi siamo tutti marchigiani brava gente e quindi questo non ci riguarda. Questo ha portato a delle situazioni esiziali pericolosissime, perché in realtà sì, le infiltrazioni venivano dal sud, poi da metà degli anni 90 non sono più venute solo dal sud, cioè hanno intessuto alleanze criminali con le mafie straniere, quella balcanica, quelle del Nord Africa e adesso anche quelle orientali, quelle cinesi. Il nostro viaggio si sposta ora nel Lazio. Le cosche hanno sempre espresso interesse per i luoghi del potere politico ed economico. Infiltrazioni mafiose nella capitale e nei piccoli agglomerati del litorale laziale, come sottolinea Italo Ormanni, procuratore aggiunto responsabile del coordinamento della DDA. Tradizionalmente dalla parte sud del Lazio, Formia, Minturno, Gaeta, che era più sottoposta da sempre a infiltrazioni camorristiche. Questa situazione si è negli ultimi tempi evoluta, nel senso che sono state accertate, sono stati individuati anche dal punto di vista giudiziario, non soltanto dal punto di vista dell'indagine, diciamo così, socio-criminologica, gruppi di appartenenti alle formazioni sia calabresi sia siciliane. Sono stati presi ovviamente provvedimenti, le indagini per molti di questi fenomeni, per molti di questi gruppi, le indagini sono ancora ovviamente in corso, per altri sono stati già presi provvedimenti restrittivi, sia dal punto di vista di restrizioni di carattere personale, ordinanze di custodia cautelare, sia naturalmente in parallelo di carattere patrimoniale per quanto riguarda la fetta, misure di prevenzione e sulle quali abbiamo svolto un'attività molto approfondita. Resta l'usura l'attività principale della criminalità nel Lazio. Il sostituto procuratore della DNA, Luigi De Fichi. La criminalità organizzata sul nostro sul territorio laziale è operante su alcuni filoni prevalenti. Il settore dell'usura è un settore sicuramente privilegiato dalla criminalità romana per vecchia tradizione. La banda della Magliana inizia come tra i suoi capisaldi, tra le sue attività illecite più importanti, proprio quella dell'usura, ma ancora prima della banda della Magliana vi era il pregiudicato romano per proprio vecchia tradizione, faceva l'usuraio oltre che il rapinatore. Per cui i clan mafiosi camorristi che dalla vicina Campania ovviamente hanno una facilità a insediarsi e mimetizzarsi nel tessuto economico della capitale. Non è un caso, e questo è da ricordare, è che il Lazio è la seconda regione dopo la Campania per le presenze criminali segnalate per il delitto di usura, per cui questo è un dato molto importante che deve far riflettere circa questa penetrazione continuata che vi è su questo settore. Ovviamente usura significa riciclaggio, ovviamente questo significa presenza di interfacce finanziarie sul nostro territorio, sono i referenti delle varie organizzazioni criminali mafiosi presenti nel Lazio che da tanti anni servono le varie criminalità e sono a disposizione delle varie criminalità. Il viaggio nell'Italia mafiosa termina qui. Quella che avete ascoltato è soltanto una mappa dell'Italia delle cosche, infiltrate nel tempo ben oltre i loro territori di origine. Una mappa come questa non ha un valore scientifico, però può scuotere le coscienze dei cittadini. Una mappa come questa ci può far almeno vigilare, sostiene la relazione della DIA. Anche nei prossimi anni le grandi organizzazioni criminali continueranno a guardare con estremo interesse la realizzazione delle opere pubbliche nel nostro paese, tentando di inserirsi, direttamente o indirettamente, nelle gare di assegnazione dei diversi appalti e nelle procedure di affidamento dei subappalti.